Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno, è giovedì 29 agosto 2013, 110ª puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Abbiamo saltato una settimana per un problema tecnico, ma non temete, recupereremo con questa puntata ricchissima di contenuti. Parleremo di esecrabili ordinanze comunali fiorentine, a danno della sana relazione che dovrebbe esserci tra animali umani e non umani, una petizione che chiede l'interruzione della trasmissione televisiva Circo Estate 2013, disgraziatamente in onda quest'estate su Rai 3, una notizia, questa sì davvero shock, che riguarda l'ennesima vittima della caccia nella nostra regione, una vittima che avremmo potuto essere tutti noi. Quindi restate in ascolto, restando animali! Turn me loose from your hand. Let me fly. Don't land over green fields, trees and mountains. Tre settimane fa vi abbiamo raccontato la bella storia di Paolino, il giovane piccione che io e Camilla, con la collaborazione di una vicina di casa, abbiamo salvato da morte certa dopo una precoce caduta dal nido. Abbiamo accudito e nutrito Paolino per qualche settimana, scoprendo che i bistrattati piccioni sono animali vivaci e simpatici. Interagire con lui è stato così piacevole che quando Paolino ha spiccato il volo e ha lasciato la stanza di casa nella quale lo avevamo sistemato, da un lato eravamo ovviamente contenti per lui e la sua libertà, dall'altro dispiaciuti per la perdita di un nuovo amico. La sorpresa è arrivata il giorno dopo, quando Paolino è tornato nella sua stanza, grazie alla finestra sempre aperta. E così ha fatto e sta facendo ogni giorno. Arriva verso fine mattinata e riparte a metà pomeriggio. Casa nostra è anche casa sua e noi siamo molto contenti di avere un amico con le ali. Ora però scopriamo d'essere dei fuorilegge. Il comune di Firenze, alla vigilia di Ferragosto, con apposita delibera, ha infatti vietato ai cittadini di nutrire i piccioni, anche in luoghi privati, cioè a casa propria, prevedendo multe per i trasgressori da 80 a 500 euro. È quindi vietato anche mettere qualche briciola sul balcone della propria finestra, sempre che sia un piccione a usufruirne. Da quel che si capisce, infatti, per ora il comune concede, bontà sua, che le briciole finiscano nel becco di tortore, pettirossi e altri volatili. Non è chiaro certo chi possa controllare come. Chissà se arriveranno i vigili a verificare chi becchetta e chi no. Detta così naturalmente fa ridere, ma in verità c'è poco da scherzare, visto che il comune è arrivato a invitare pubblicamente alla delazione. Chiunque assista al reato, cioè al piccione che mangia briciole sul balcone di un vicino di casa, dovrebbe chiamare i vigili urbani. È chiaro che, raccontando la bellissima vicenda di Paolino, ci siamo autodenunciati, sia pure senza saperlo, ed è altrettanto chiaro che a questo punto dovremo aspettarci l'arrivo dei vigili sotto casa, perché nel frattempo non abbiamo smesso di accogliere ogni giorno il nostro amico pennuto, che nella sua stanza, accanto alla nostra camera, ha anche una ciotolina con dei semi. Per il comune di Firenze siamo quindi dei fuorilegge. E non solo i vicini, ma tutti gli ascoltatori di Controradio potrebbero sentirsi in dovere di avvertire gli uffici comunali. A pensarci bene, a dire il vero, Paolino non mangia all'aperto e neppure su un balcone o su un davanzale e quindi non è sicuro che l'ordinanza riguardi anche noi. Ma se i vigili arriveranno con un mandato di perquisizione ed entreranno nella stanza di Paolino, scopriranno facilmente il corpo del reato, la ciotolina con i semi, e a quel punto non avremo scampo. L'ordinanza comunale, voluta dall'assessore Caterina Bini, che pure è una veterinaria ma che certo non si discosta dalla via maestra della diffusa e un po' paranoica antipatia per i piccioni, rappresenta un'escalation rispetto al divieto, in vigore a Firenze fin dal 2008, di dare da mangiare ai piccioni in luogo pubblico. La nuova ordinanza estende il divieto alle dimore private. Insomma, la guerra continua con altri mezzi, e ancora una volta invoca il tema del decoro, un concetto che da tempo è diventato un passepartout per giustificare vessazioni e forme di esclusione verso chi dà fastidio al cittadino medio ben pensante. Che sia animale o che sia persona poco importa, basti ricordare i provvedimenti presi in questi anni verso lavavetri, mendicanti, musicisti di strada. Sul tema che oggi ci riguarda, quello dei piccioni, abbiamo chiesto un parere al professor Antonio De Marco, biologo, ricercatore del CNR, fondatore in provincia di Rieti del rifugio e centro di recupero per animali Parco dell'Abatino. Intanto è sicuramente un problema che è abbastanza complesso, però mi pare che la soluzione prospettata sia poi alla fine, non, almeno da me, non condivisibile. Perché intanto il fatto che delle persone vengono private o si proibisca dell'opportunità di tutto sommato curarsi di altri esseri, insomma in questo caso dei piccioni, mi pare tutto sommato poi sia controproducente, e poi il vantaggio che è molto relativo. Il problema è che di questo proliferare dei piccioni, ma non si tratta soltanto qui di piccioni, perché dovremmo parlare anche allora dei gabbiani, dovremmo parlare di tanti altri animali, è legato soprattutto molte volte a una cattiva gestione delle discariche e dei rifiuti. Quindi attribuire poi la responsabilità di questo proliferare di questi animali al bambino che dà la mollichetta o del signore che danno qualche mollica di piccioni mi pare insomma fuorviante rispetto al tema vero, che è quello appunto di una società che non riesce a risolvere questi problemi di fondo, che poi sono i problemi del nostro tempo, come liberarci dall'enorme quantità di rifiuti che noi produciamo, e quindi equilibri che vengono alterati di fatto in una situazione di buon equilibrio dal punto di vista ecologico. I piccioni avrebbero dei loro predatori naturali, ma quelli che sono dei potenziali predatori naturali, come potrebbero essere appunto i gabbiani o le cornacchie o anche le tancole, diciamo, hanno da alimentarsi abbondantemente nelle discariche, per cui non svolgono questo ruolo. In provvedimenti di questo tipo, ma ce ne sono di tantissimi, ogni tanto se ne sentono anche di altri, non solo nei confronti di piccioni, di altri animali, cioè di trascurare o di sottovalutare l'importanza invece di mantenere vivo un rapporto corretto con gli animali, anche dal punto di vista di questa interazione, diciamo, tra specie diverse, insomma, quindi, negare la possibilità quindi di dare la briciola del pane al piccione, e in qualche modo immaginare un mondo in cui la convivenza sia non possibile e che la città sia una sorta di struttura così asettica in cui creiamo delle barriere e gli altri devono star fuori. Ma io credo che tutto sommato questa non è una città ideale. Ogni martedì alle 21.30 su Rai 3, quindi su un canale della televisione di Stato, durante il periodo estivo viene mandato in onda un programma dal titolo Circo Estate 2013, che mostra, senza censure di sorta, animali addestrati a fare quello che, come ormai tutti ben sappiamo, nessun animale è nato per fare, né desidera fare, né farebbe mai se non venisse sottoposto a ogni genere di violenza. Violenze ormai documentatissime e reperibili da chiunque, grazie alla rete internet. Anna Maria Manzoni, psicologa, psicoterapeuta, scrittrice di tanti libri meravigliosi, dei quali ne citiamo uno per tutti, quello che si intitola In direzione contraria, amica della trasmissione Restiamo Animali e firmataria assieme a noi di molte petizioni per l'affermazione dei diritti animali, ha lanciato in rete la richiesta di intervenire tutti insieme, democraticamente, affinché questa trasmissione, che banalizza allegramente la violenza, venga sospesa. La nostra redazione ha accolto questa preghiera e ne ha fatto una petizione che tutti potete trovare nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com o nella piattaforma Change, digitando chiediamo a Rai 3 di rinunciare al Circo Estate 2013. Abbiamo chiesto ad Anna Maria Manzoni di spiegarci per quale ragione ritiene che la trasmissione Circo Estate 2013 debba venire sospesa. Il circo è diseducativo, il circo ovviamente con animali, perché per costringere gli animali a fare esercizi e rappresentazioni che sono totalmente contrari alle loro caratteristiche di specie, gli stessi animali devono essere sottoposti a dei tirocini che sono crudelissimi. In epoca di internet è facilissimo documentarsi, sappiamo tutti benissimo che gli orsi non possono andare in bicicletta, che le tigri non possono attraversare cerchi di fuoco se non perché obbligati, e perché il non farlo procurerebbe loro un dolore ancora maggiore di quello che sicuramente provano nell'eseguire questi esercizi. Allora, il circo con animali è una retroguardia che ci stiamo tramandando da tempo immemorabile, dai tempi in cui non c'era nessunissimo rispetto per gli animali. Il circo con animali sopravvive. Le petizioni sono state in questi anni moltissime, tanto è vero che ci sono paesi fuori dall'Italia che hanno deciso di non usare più animali nelle rappresentazioni circensi proprio per un discorso di rispetto nei loro confronti. L'Italia è una retroguardia purtroppo in questo senso, però sono tantissimi i comuni che si stanno muovendo affinché una legge che non si riesce ad approvare possa essere comunque bypassata con dei controlli molto accurati. Che cosa succede? Succede che invece una rete come Rete 3, che è considerata e si considera da tanti punti di vista una rete all'avanguardia, rispetto a questo discorso è veramente arroccata su posizioni assolutamente indifendibili, perché non si pone dal punto di vista degli animali, ma continua a mandare in onda programmi che sono basati sul loro sfruttamento e sulla loro umiliazione ad esclusivo beneficio del divertimento delle persone. Io ho sottolineato più volte che in primo luogo dobbiamo porci il problema del rispetto nei confronti degli animali, in secondo luogo dobbiamo anche fare delle riflessioni su quanto antieducativi, antipedagogici siano questi spettacoli, perché sono normalmente destinati soprattutto ai bambini. Rappresentazioni come queste, in cui gli animali devono muoversi al ritmo della frusta del donatore, rappresentano per i bambini davvero uno strumento diseducativo, nel senso che li spingono a divertirsi davanti a spettacoli che dovrebbero invece far rabbrividire. Ecco, questo è il motivo base che mi ha spinto e spinge come me tantissime persone a muoversi affinché finalmente si ponga fine a questo che è veramente una rappresentazione che non ha nessuna ragione di sopravvivere. Invitiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici di Restiamo Animali a firmare e soprattutto a diffondere questa petizione tra tutti i loro contatti, ricordando che per ogni firma lasciata, se accompagnata dal proprio indirizzo di posta elettronica, partirà una mail al direttore di Rai 3 e ai suoi collaboratori. Contiamo molto sull'effetto valanga per far arrivare una voce sensibile ed empatica verso i nostri amici e fratelli animali negli uffici di Rai 3. Grazie Anna Maria, ci risentiamo presto per fare un bilancio, speriamo, di questa petizione. Speriamo che sia un bilancio positivo. Vi ringrazio dello spazio che dedicate a questo argomento e vi auguro buon lavoro. La notizia è della settimana scorsa. Una donna di 25 anni è stata ferita mentre viaggiava lungo l'autopalio all'altezza dello svincolo di Siena Nord da un pallettone da caccia proveniente dalla boscaglia. La donna è stata soccorsa e curata all'ospedale Santa Maria alle Scotte ed è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni. Stava viaggiando con il finestrino del lato passeggeri abbassato e si è ritrovata raggiunta da un colpo di proiettile che per fortuna l'ha raggiunta all'addome. Se fosse stata colpita la testa o in parti più delicate del corpo, avrebbe rischiato molto di più. Secondo le prime indagini e come hanno riportato i giornali il giorno successivo, lo sparo sarebbe stato esploso da un cacciatore di frodo, un bracconiere in cerca probabilmente di cinghiali. Il caso è evidentemente allarmante, preoccupante, perché spari così ravvicinati a un'arteria stradale così frequentata qual è l'autopalio evidentemente destano allarme. Infatti il prefetto di Siena, Renato Saccone, si è affrettato a rassicurare la cittadinanza garantendo controlli più stringenti sul bracconaggio in provincia di Siena. Facciamo i migliori auguri alle forze di sicurezza della provincia di Siena in questa repressione del bracconaggio, ma questo episodio ci deve far riflettere su un aspetto finora troppo trascurato quando si è parlato delle frequenti ordinanze delle province toscane di autorizzazione della caccia in deroga. Queste autorizzazioni concesse per cosiddetti piani di abbattimento del cinghiale o per ridurre il numero di volpi, caprioli e altri animali ritenuti con motivazioni spesso fragili in eccesso rispetto a un presunto equilibrio, ma che in realtà tradiscono un'attitudine a favorire le attività venatorie che ormai nemmeno più gli amministratori nascondono più di tanto. Ecco, queste autorizzazioni espongono evidentemente la cittadinanza anche a un rischio particolare, quello di essere raggiunti dai colpi dei cacciatori frequentando i boschi, avvicinandosi ai corsi d'acqua, come spesso succede in campagna d'estate quando le persone sono più propense a passeggiare, a praticare il trekking e così via, e anche adesso semplicemente frequentando una strada che attraversa un'area boschiva. È bene ricordare che l'osservatorio dell'Associazione Vittime della Caccia, con riferimento alla stagione venatoria 2012-2013, quindi per le 62 giornate venatorie effettive fra il 1 settembre 2012 e il 31 gennaio 2013, ci sono stati 21 morti in Italia e 97 feriti in attività di caccia. Il bilancio per la Toscana è di un morto e 14 feriti. La caccia è cioè un'attività che comporta ogni anno sistematicamente un cospicuo numero di vittime, sia fra i cacciatori, sia fra la gente comune. Si manifesta sotto i nostri occhi un paradosso. La sicurezza dei cittadini è da anni uno dei temi forti delle campagne elettorali, delle attività dei sindaci, dei presidenti di provincia, degli amministratori locali. In questo caso però, quando si parla di caccia, di attività venatoria, e quindi quando si tocca un tema particolarmente sensibile sotto il profilo elettorale, almeno questa è la valutazione che gli amministratori locali toscani e non solo toscani danno dell'attività venatoria, ecco che la sicurezza diventa qualcosa che si può trascurare, dimenticare, salvo poi scoprire che si viene colpiti da pallettoni da caccia mentre si viaggia d'estate con un finestrino aperto vicino alla città di Siena. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti: restiamoanimali@controradio.it.